Terza unità. Fare conoscenza. Dialogo. Al bar di un albergo. Scusi, sono libere queste sedie? Sì, prego, accomodatevi. Grazie. Permette? Mi chiamo Hans Weber e questa è mia moglie. Piacere, io sono Paolo Rossi. Piacere, molto lieta. Di che nazionalità siete? Siamo tedeschi. Complimenti, lei parla bene l'italiano. Grazie. Avete intenzione di stare molto tempo a Roma? No, solo pochi giorni. Come mai? Perché io ho un impegno di lavoro. Qual è la sua professione? Faccio il dentista. E sua moglie, che lavoro fa? Lei non lavora. Abbiamo due figli piccoli. Capisco. Lei è sposato? Sì, e ho anch'io due figli, un maschio e una femmina. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Scusi, sono libere queste sedie? Sì, prego. Accomodatevi. Grazie. Permette? Mi chiamo Hans Weber e questa è mia moglie. Piacere. Io sono Paolo Rossi. Piacere. Molto lieta. Di che nazionalità siete? Siamo tedeschi. Complimenti. Lei parla bene l'italiano. Grazie. Avete intenzione di stare molto tempo a Roma? No, solo pochi giorni. Come mai? Perché io ho un impegno di lavoro. Qual è la sua professione? Faccio il dentista. E sua moglie, che lavoro fa? Lei non lavora. Abbiamo due figli piccoli. Capisco. Lei è sposato? Sì, e ho anch'io due figli, un maschio e una femmina. Vocaboli, pagina 85. Pochi libri, molti libri. Vocaboli, pagina 86. Valigie, chiavi, telefono, ventilatore, casa, soldi, dischi, macchina. Terza unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 20. Nella hall di un albergo romano. Prego, si accomodi. Grazie. Come mai siete a Roma? Io per affari e mia moglie per turismo. Di dove siete? Siamo di Torino. Ah, Torino. Ho molti amici in quella città. E lei di dov'è? Di Milano. È sposato? Sì. Ho moglie e tre figli. Per quale motivo è a Roma? Per lavoro. Che professione fa? Sono avvocato. Esercizio 21. Una brava ragazza. Dunque tu lavori già? Sì, lavoro e studio. All'università? Sì, frequento la facoltà di lingue. Ma non è troppo studiare e lavorare insieme? Beh, non è facile. Comunque faccio un lavoro part-time. Che lavoro? La commessa in un negozio di abbigliamento. Lavori di mattina o di pomeriggio? Di pomeriggio, dalle 4 alle 8. Quanti esami hai ancora? 5. E dopo che pensi di fare? Insegnare inglese alla scuola media o superiore. Ma so già che non è facile. I posti sono pochi. Parli altre lingue oltre all'inglese? Il francese e lo spagnolo, ma non bene. Scusa la domanda, quanti anni hai? 23. Come mia figlia. Anche lei fa l'università, ma non lavora. Studia soltanto. Esercizio 22. Prego, accomodatevi. Di che nazionalità siete? Scusi, sono libere queste sedie? Lei parla bene l'italiano. Complimenti. Abbiamo intenzione di stare solo pochi giorni. Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 98. Lei è avvocato, vero? No, sono ingegnere. E sua moglie? Lei non lavora. Abbiamo un figlio piccolo. E lei che professione fa? Sono medico. Ha figli? Sì, due già grandi. Il maschio è dentista e la femmina è farmacista. Bene. E sua moglie? È medico anche lei.